Ma sì, questo è normale ed è altrettanto anche bello perché insomma fa piacere e dà soddisfazione vivere da protagonisti degli eventi così importanti, quindi comunque è vero che il nostro lavoro è spesso dietro le quinte per cercare di formare le squadre più competitive possibile, però è anche vero che a volte si può gioire e avere soddisfazioni anche solo dal fatto di avvertire tutta questa attesa, questa giusta tensione che poi è la passione dei nostri tifosi, quindi mi fa piacere sapere che questa è una partita così aspettata, anche se noi che poi viviamo di calcio sappiamo che all'ottava di campionato nessuna partita al mondo può essere né decisiva né assumere importanza esagerata. Ma è sicuramente una partita importante per quanto riguarda la nostra consapevolezza, perché affrontiamo una squadra che non perde in campionato da, insomma, ormai ho perso il conto, sono 46 44, partite. 40, 46 partite, quindi questo la dice sicuramente lunga nel proprio campo. Tra l'altro, con il nuovo stadio, la Juve ha acquisito ancora più forza perché si crea un ambiente veramente straordinario e perciò sappiamo che affrontiamo questo appuntamento con questa doppia consapevolezza, cioè sapere che abbiamo di fronte un avversario che i numeri dicono pressoché imbattibile, però anche con una grande voglia di provare a fare qualcosa di straordinario. Insomma, visto che comunque alla finale di Coppa Italia la cosa c'era anche riuscita, quindi insomma, certo sul loro campo e in condizioni diverse come sono queste rispetto alla finale di Coppa Italia sarà ancora più difficile.